Eccolo il biglietto della mia condanna. La chiave della cella, il pozzo in cui buttarla. Passaggio solo andata, castello senza uscita. Imbroglio complottato per la libertà finita. No, non tengo più minuti nelle mie tasche buche. Le forze della fisica non sono delle amiche. Fuggire adesso ora dalla trappola del corpo. Fuggire senza dubbi da quel pupazzo. Sono vento e rotta, corrente di rete.